listening to Rock FM. E poi stasera quando andate al bar con gli amici lo dite: ah, lo sai cos'è il Sitlin Circuit? Ah sì, potete approfittarne, è una nozione in più nel vostro bagaglio. Diamo le soluzioni. La riposta A ipotizzava che Sitlin Circuit fosse il nome con cui venivano indicato quell'insieme di locali sparsi attraverso gli Stati Uniti dove musicisti, attori e artisti afroamericani erano liberi di esprimersi in periodo di segregazione razziale. È forse l'ipotesi giusta? Ma guardi, mi piace talmente tanto questa idea, questa ipotesi, che io gliela passo come giusta. È proprio quella giusta, proprio dal Sitlin Circuit mossero i primi passi gente del calibro di Cab Calloway, Duke Ellington, Jimi Hendrix, Ray Charles, i Supremes, Ike e Tina Turner, e ci mettiamo pure Otis Redding. Come se non bastasse, vi segnalo pure i Jackson 5, insomma, viva, il viva. Gota della musica nera americana nacque proprio da questi Sitlin Circuit. Segnaliamo che il nome deriva da Sitterling, ovvero una pietanza a base di interiora di maiale stufate, che a quest'ora fanno sempre piacere, o in zuppa, rientrante nel cosiddetto soul food, era l'insieme delle pietanze tradizionali della comunità afroamericana degli Stati Sudisti. Abbiamo scoperto insieme, se non lo sapevate, cos'è il Sitlin Circuit. Bella idea, tra l'altro, uno spazio nella quale potevano esibirsi tutti gli artisti, gli intellettuali, i musicisti allontanati dalla segregazione razziale. Molto rock, molto avanti. Stand next to your fire. Stand next to your fire, Jimi Hendrix. Saluti alla mamma di Lorena, patente 552. Caro Ariele, da ieri il calendario di Rock FM campeggia in ufficio unitamente a quelli dei carabinieri. Chiedo scusa ai calendari dei carabinieri. Inizio l'ultimo blocco di pane, burro, rock and roll dicendo che all'alba del 29 di gennaio abbiamo capito esattamente come fare a spedirvelo il calendario 2008, l'anno della svolta. Quindi, nel corso delle prossime giornate, assicuro che risponderò alle centinaia di mail che richiedevano notizie sul calendario 2008, l'anno della svolta. Se siete ancora interessati, riusciamo a spedirvelo. È stato, insomma, 29 giorni per riuscire a capire come fare a spedire un pezzo di carta. Sono i tempi di pane, burro e rock and roll. Ultima mezz'ora nella quale imperdibile sarà l'appuntamento con il provino per diventare musicista rock con la bocca. Ancora Arogna e Frigo, ma soprattutto l'anteprima di questa settimana in attesa della puntata di venerdì. Sentite qua. Prossimamente, in esclusiva per Rock FM, una radionovela

Una è che sta facendo uno spamming incredibile nella sua, cioè tu hai una pasticceria. Sì, ho una pasticceria a Sciarbarasca che è nelle alture vicino a Celle, diciamo da sopra Cogoleto, comunque a pochi chilometri da Celle. Pasticceria e... specializzata nello smercio di focaccine e merendine per i bambini che vanno a scuola. Esatto, esatto, tutti i bambini qua mi conoscono e niente, e io sto convincendo appunto genitori, nonni e bambini a partecipare vestiti da indiani o cowboy. E io sarò presente, naturalmente, vestita da indiana, farò un assalto al treno con il mio asino. Eccola lì, eccola qua. Francesca è quella dell'asino. Che sì, si chiama? Carmela. Carmela. Sì, è un'asina. Che è tra un l'altro. Po' birichina. Ecco, è un po' questa cosa dell'un po' birichina che non mi piace per niente. In che senso? Oggi è tranquilla, è molto affettuosa e il giorno dopo si avvicina e calcia. E ti calcia. Adesso immaginatevi la nostra Francesca nella nostra sfilata di raduno surrealista col suo asino che scalcia i bambini. Io me la immagino così la scena. Potrebbe essere così? Può anche essere. Ma io ti dico, ragioniamoci su un po' per la storia del mulo. Sì, perché bisognerà anche targarlo, perché ovviamente ci vuole una targa. E guarda, fai veramente come vuoi tu, mi fido ciecamente di voi. Sì. Intanto sarai indiana allora, questo è sicuro. Io sì, da grande capo avrò una bella criniera di piume, così niente, appunto ho già reclutato un po' di bambini che mi hanno assicurato che vengono. E niente, infatti per questo vi ricordo al limite di portare qualcosa per loro. In che senso? Qualche gadget magari dalla radio per i bambini. Una patente piccola. Esatto, magari una patente per la bici. Qualcosa del genere. Guarda, mi metti un attimo in imbarazzo. Gadget per bambini a Rock FM, giuro non ne ho mai visti. Però me ne inventerò, mi invento qualcosa da qua a domenica, insomma. Ma sì, qualcosa io confido in voi. Sì. Nel senso che voi siete grandi. Vabbè, senti, no? Vedi di non farti licenziare perché ho intuito che lì c'è l'ambiente un po' che stai rompendo le scatole. No, no, tanto siamo di casa, quindi non mi possono lasciare a casa. Va mi bene. Tengono, mi tengono. Francesca, allora ci vediamo alle 2:30 a Piani di Celle. Perfetto. Ok, domenica. Ciao buona ciao. Giornata. Altrettanto. Portare l'asino è molto rock, ma è anche molto pericoloso. Ma il pericolo è rock? Beh, sì. E tutto torna allora. Frigo, hai letto che cazzo scrivono gli umani? Perché? Maledetti umani, vedi, io ho letto il buio oltre la siepe e mi è sembrata una, come dire, una stronzata. Beh, anche tu, che cazzo leggi a fare, scemo? Mica ti fanno il test di intelligenza qui. Lo so, ma insomma, così, mi era venuto in mente di scrivere, un libro. Ah sì? Cosa? Cuore di topo? No. La capanna dello zio Rogna? No. Non c'è gusto in Italia ad essere cave da esperimento? No! Il topo senza talento? No! Rogna Carinina? No! Le memorie del sottoscala? Oh, insomma, lo vuoi sapere? Sì. Il buio oltre la gabbia. Che stronzata! No, dai, non è vero! Beh, allora scrivo anch'io un libro, Rogna! Che cavolo scrivi tu? I dolori del giovane Frigo! Ma fottiti! Copiami l'idea e ti mischio nella pappetta le pillole della castrazione, Rogna! Adesso che ci ripenso è un'ottima idea. Le pillole della castrazione? No, i dolori del giovane Frigo. Mi piace, mi piace. Copione bastardo. Musicisti rock con la bocca cercasi. Musicisti si nasce o si diventa? Beh, ci si può lavorare un po', questo è l'obiettivo di Pane, Burro e Rock and Roll da quando abbiamo lanciato la possibilità di fare il provino per diventare musicista rock con la bocca. Caro maestro, abbiamo un nuovo provinante. Oh, dovrebbe arrivare delizia. Da Genova, dovrebbe chiamarsi Andrea e dovrebbe avere 36 anni. Pronto? Pronto? Pronto? Buongiorno Andrea. Buongiorno. Buongiorno. Svegliamo i radioascoltatori come hai fatto a diventare un provinante di musicista rock con la bocca. Diciamo che fin da bambino ho avrei avuto questo dolore. Infatti quando ho saputo di questa vostra rubrica hai approfittato. Un'illuminazione. Ah, stupendo. Finalmente qualcun altro ci ha pensato meglio di me. Senti, nella vita reale cosa fai? Nella vita reale sono un tecnico collaudatore di valvole in una industria del genovese. Come si fa? Solo per passione, diciamo. Certo. Scusa Andrea, come si fa a collaudare le valvole? Si spostano, si mettono le valvole e poi si tolgono come le lampadine? Mettono e si tolgono? Sì, è un po' più menoso. La menata è incredibile. Ho capito. Andrea, per vivere si fa anche questo. Nella vita reale suoni uno strumento vero? Sì, diciamo, mi cimento sempre, siamo appassionati con degli altri amici di hard rock. E cosa suoni? Facciamo un po' di cover di Ronnie James Dio. Ah. E roba così. Ma che strumento, utilizzi? In realtà ho iniziato come bassista, ora come chitarrista. Un'evoluzione. Di arrangiarmi, diciamo. Senti, invece cosa avresti preparato per il provino di Pane, Burro e Rock and Roll? Per il provino di Pane, Burro e Rock and Roll ho preparato un brano, un famosissimo brano dei Led Zeppelin che mi emoziona sempre. Sì. Black Dog. Ah. ovviamente un classico. L'introduzione che farò viene da un album che ha fatto la BBC. Una versione ricercata, specializzato. Perfetto. E con quindi, che strumento suonerai con la bocca? Con la chitarra, però siccome il brano ha una ritmica molto marcata, credo che farò anche un intervento, diciamo, di tipo misto, cioè batteria chitarra. Ah, maestro, si può? Le regole dicono che si proviamo. Può? Ma sì, perché no? Perché concediamolo, no? Concediamolo. E allora Andrea da Genova è pronto per il suo provino per diventare musicista rock con la bocca. Vai Andrea! Yeah! Io vado di headbanging, Uno degli interventi migliori. Hai fatto tutti gli strumenti, Andrea. Eccoci. Ma la carica, l'energia. Mi sta venendo un coccolone. No, ci credo. Eri lanciatissimo. Spero tu sia in una stanza chiusa con nessuno intorno. Sono in una stanza chiusa, in effetti, in casa. Devo prendere a lavorare. Anche imbottita, spero sia la stanza. Sì. La carica, un'energia mai sentita fino ad ora. Sì, vale. Grande spinta. Vado fuori più del solito. Guarda Andrea, noi segnaliamo assolutamente il tuo numero di telefono e le faremo sapere. Grazie mille. Senti Andrea, ma i Led Zeppelin quanto ti piacciono da 1 a 100? 350. Si sentiva dalla carica. Grande carica, grande energia Andrea. Buon lavoro. Quando farete il tour lancerete la tournée, spero di far parte dei turnisti. Lo sarai. Rocker con la bocca. Lo sarai Andrea, presto. Bravissimo. Ciao Andrea. Superlativo, bravo, un gigante. Hey mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Oh, Beh, questa è la versione originale di Led Zeppelin Black Dog, niente a che vedere con la trascinante versione del radioascoltatore Andrea che ce l'ha suonata con la bocca. Non siate timidi, iscrivetevi alla Provino per diventare musicisti rock con la bocca. Chiudo con un grandissimo problema. Maledetta televisione, rischiamo di perdere un radioascoltatore che ci scrive da quando fanno gli antenati su Italia 1 alle 8:30. Mia figlia Lucrezia mi fa abbassare la radio, aiutatemi, ci inventeremo qualcosa. Gli appuntamenti sabato al Jamba Live di Rapallo, mi troverete con la Rock FM All Star Band, e dopo, come dirvelo ragazzi, domenica 3 il primo raduno surrealista di Pane, Burro e Rock and Roll, ci troviamo vestiti da cowboy o da indiani. Domenica alle 14:30, Piani di Celle, il nostro carro è quello con la locomotiva. Dove ci sono i cowboy e gli indiani, ecco. Pane, burro e rock and roll. Se ci trovate l'asino, è l'asino di Francesca. La tua colazione roll. Oh, anche quello è un riferimento, eh. Pane, burro e rock and roll. Torneremo domani, spero puntuali, dalle 7 alle 9, con la nostra colazione. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Mentre puntuale come un orologio svizzero anche quest'oggi, pronto a trasportarvi fino al mezzodì, Marco Garavelli, buona giornata. Ciao, buona giornata a te. Ma voi siete cowboy indiani evoluti, io ero rimasto al tempo della diligenza coi cavalli. Noi abbiamo la locomotiva. Già la locomotiva, ecco. Sulla strada ferrata. Però, esatto, sì, siamo cowboy dell'ultimo. Infatti, molto avanti, ultimo grido, ultima moda. C'è anche dietro il carro delle poste, che non ho capito se sono le poste moderne o le poste di allora. Beh, allora era veramente sul cavallo, dai. Sì, hai ragione. Comunque, per chi fosse interessato, abbiamo i primi scatti fotografici. Quindi avete già anche la mitragliatrice sul treno, eccetera. Vabbè. Non posso garantire nulla. Le prime immagini della nostra locomotiva in costruzione sono su myspace.com/paneburrofm. Il carbone chi lo porta? Fricca. La locomotiva. Eppure la legna. Non farmi troppo domande, va bene, sul carro, va bene. Marco, perché no, non perché sto preparando le previsioni del tempo. Esatto. È tutto unito a quello. Hai fatto bene a dirlo. Ci sentiamo domani. Va bene. Ciao. Ciao. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Pane, burro e rock and roll ha deciso. Uno dei sette vizi capitali è decisamente più rock degli altri. È l'invidia, un'esternazione talmente compromettente da risultare fondamentale. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Confessaci la tua invidia. Garantiamo l'anonimato. Sono l'inventore del rock demenziale. C'è qualcuno che mi ha copiato e anzi ha migliorato, ottenendo un immeritato successo. Successo che spettava a me e a me soltanto. Probabilmente, anzi, sicuramente meritavo di più. Io invidio. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Iscriviti anche tu, invia un SMS al 335-100-7777 col testo L'invidia è rock. Lamentarsi è deprimente, invidiare è rock. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia.